Salve a tutti ragazze e ragazzi, io sono Emanuele Pilia e sono il direttore editoriale di Editore. Come tanti di voi, persone che lavorano nel cognitariato o che comunque sono lavoratori autonomi legati alle attività culturali, anche noi stiamo capendo quanto sia importante poter vivere la socialità e la possibilità di spostarsi per il nostro lavoro, ma anche semplicemente per il nostro tempo libero. Su invito di Chiara, ho deciso di leggervi un passo tratto da Cronofagia, che è un testo che insiste molto sulla questione del tempo libero. Tema che in questi giorni inizia a diventare di capitale importanza, dato che tutti noi siamo un po' forzatamente costretti a reinventare le nostre routine. Vorrei leggervi quella che è l'introduzione di questo libro, perché un po' inquadra il problema e dà anche per certi versi degli spunti. La storia dell'umanità è contraddistinta da un insopprimibile istinto predatorio. Si tratta di una caratteristica che ci accomuna a una infinità di specie animali che necessitano di cacciare per il proprio sostentamento. La predazione è un atto ineliminabile dell'evoluzione e lo è in relazione alle due dimensioni in cui si sviluppa l'esistenza, il tempo e lo spazio. Queste pagine, però, non vogliono descrivere la predazione nella sua forma istintiva, perché questa è materia per psicologia ed etologia. Questo libro vuole più semplicemente mostrare le dinamiche, le strategie e le sovrastrutture con le quali i poteri politico ed economico depredano le masse del loro tempo. Si tratta di una colonizzazione sempre più raffinata, dotata di uno straordinario camaleontismo e capace di nascondersi sotto le sembianze rassicuranti dell'amicizia, dell'arte, dell'intrattenimento e della prospettiva di uno sviluppo economico e sociale. La fame dei predoni non si limita al mondo tangibile, ma si estende all'intangibile. Non vuole solamente lo spazio e non si accontenta nemmeno di quell'entità ibrida che a 2800 anni vive tra il reale e il virtuale, ossia il denaro. No, la predazione oggi vuole appropriarsi della dimensione astratta del tempo. Il sistema socio-economico erode le ore di sonno, dilata i tempi del consumo e, con le sue arti deseduttive, assopisce le masse in una servitù volontaria dai confini ancora tutti da sondare. In un giorno feriale, l'individuo contemporaneo vive un'esistenza mediamente tripartita in 8 ore di lavoro, 8 ore di tempo libero, 8 ore di sonno. Abbiamo detto mediamente perché dilaga un processo erosivo nei confronti del sonno, aumenta le ore di veglia e di conseguenza il tempo disponibile per il lavoro e per i consumi materiali e immateriali. Nella dimensione spaziale la predazione permane in continuità con le logiche coloniali, latifondistiche e feudali del passato. Guarda i territori come una risorsa da sfruttare e abbandonare al proprio destino e alle lotte della popolazione occupate, come a recriminazioni da sedare con la compensazione o con l'ausilio di forze militari, paramilitari o di polizia. Queste pagine contengono tanti libri e tante idee, pezzi di vita ed osservazioni. Le esperienze personali si mescolano alle riflessioni di pensatori, filosofi, antropologi e sociologi. Il pedinamento della realtà è al servizio dell'analisi e la dimensione locale serve per comprendere quello che avviene su scala globale. Una critica del rapporto che il capitalismo e il potere politico stabiliscono con il tempo chiama in causa una moltitudine di discipline e rende necessari continui riferimenti a molteplici aspetti della cultura digitale. Partendo dal concetto di cronofagia elaborato da Jean-Paul Galibert, in questa sede ci interrogheremo sulle voracità con il quale il capitalismo si nutre del tempo e delle masse. Grazie a raffinate strategie di marketing, all'illusione della gratuità, i capitalismi vecchi e nuovi colonizzano il tempo libero delle persone e, non paghi di estrarre valore dal loro lavoro e di ricavare profitti dai loro consumi, cercano di spostare le frontiere del guadagno oltre i vecchi confini. Il sonno è la terra promessa, una delle poche nicchie di resistenza all'invasione del capitale. Dalla diffusione dell'illuminazione pubblica e privata fino alla moltiplicazione esponenziale degli schermi, il progresso è anche una guerra senza esclusione di colpi per conquistare il tempo e l'attenzione dei consumatori, spettatori, clienti, utenti, lettori. Ogni aspetto della vita, dell'amicizia, dell'amore, degli hobby, dell'alimentazione è soggetto a processi di reificazione e mercificazioni che trovano nelle piattaforme digitali ideali terreni di coltura. Miliardi di lavoratori inconsapevoli dedicano parti più o meno importanti della loro giornata a riversare sul web preziose informazioni che arricchiscono la fame di dati dei grandi player del capitalismo digitale. La diffusione del globale dei device e della connessione in mobilità riduce al minimo i tempi morti. Chiunque abbia un minimo di batterie, di traffico internet disponibili o la possibilità di connettersi a una rete internet ha in tasca tutta la conoscenza del mondo. La progressiva scomparsa della noia delle nostre esistenze è direttamente proporzionata allo sviluppo di dipendenze e patologie connesse all'utilizzo smodato degli strumenti digitali. La parte più consapevole della società si sta organizzando per produrre gli anticorpi necessari per far fronte a questa predazione, ma rappresenta, almeno per il momento, una minoranza marginalizzata dal potere e dagli organi di informazione. Un cambio di paradigma è possibile solo rendendo scalabile l'istanza di queste voci dissonanti, cercando di allargare il bacino d'utenza di chi resiste alla predazione attraverso la conoscenza e l'informazione. Ecco, questa è la prefazione di questo testo. So che non è proprio un testo in qualche modo consolatorio, conciliatorio con l'esperienza che stiamo vivendo, però proprio ora, proprio in questi giorni in cui noi siamo costretti in qualche modo a vivere il nostro tempo libero, riuscire a fare una riflessione sul valore del tempo diventa quanto mai importante. Beh, vi ringrazio per avermi ascoltato fin qui e vi auguro buona quarantena.